sono paziente su questo canale che sta parlando, è una volta. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10. C'è gente che parla, un canale è morto. Buonasera. Vabbè. Gente che parla. Troppa gente su questo canale che sta parlando. Parlate una volta. Vi state sovramodulando tutti. Parlate una volta. Troppa gente parla. Una alla volta. Vi state sovramodulando. Una alla volta. Parlate una alla volta. Una alla volta parlate. Troppa gente. Un canale di morti. Temporale in arrivo, staccate le antenne. Chi c'è qua? Claudio. Sono sempre in PMR con Franco. Ah, Giulio, mi sono arrivato adesso a casa. Non c'è nessuno qua, no? No, qua non c'è. Sono sempre con Franco in PMR. Guarda, non credevo di arrivare a Sassari città da... Mi... Ti senti? No, adesso. Ah, senti? Sì, adesso è fortissima, sì. Non forte, no, molto più forte anche dell'altra. Senti come arrivi bene. Sì, parla, parla, te lo faccio sentire. Ok, vabbè, dai. Aumento un po' il volume della radio per sentire tra la mia avanza. Sentito? Non mi suona bene perché parlo contemporaneamente. Lo so. Eia. Comunque, semi duplex, ho detto, mi ha fatto piacere sapere che da là arrivo a Sassari città. Magari con te avrei dovuto aumentare potenza, ma sai, era il portatile con la magnetica, no, già hai capito. Allora, io ero sotto i cavi dell'alta tensione, no? Erano vicini. Ma c'era un silenzio, una pulizia del segnale stupenda, anche tu mi arrivavi basso tipo Santiago 3, 2, 3, no, 3, diciamo. Ma era pulitissimo, non c'era niente fruscioso. Poi Marino non ne parliamo, Marino era anche tipo 6, 7 di segnale. Pulitissimo, proprio un bijou. Eia. Bene, bene. Prossima volta aumenterò la potenza di brutto. Così sarà meglio. Eia. Ma sono contento adesso. E poi io dico Bancali, ma in realtà è più vicino a Sassari. È la zona di Bancali che non è Bancali, è più vicina a Sassari, diciamo. Risulta dietro la collina, no? Tu come pigli la strada per Bancali, no? C'è quella da Sassari, no? Vai verso Bancali, prima sale, poi scende. E quindi io ero dopo la discesa lì. La zona non la so, non l'ho capita bene. Comunque al baracchino io mi ricordo arrivavano tutti bassi arrivavano al baracchino con l'antenna grande da macchina, e quindi in proporzione il PMR rende meglio, una cosa assurda. No, allora ufficialmente era magnetica, in realtà era con quell'attacco a portiera ed era lunga 1 metro, una Diamond lunga un metro. Anzi, ti dirò, se fosse fatta centro capotta con la magnetica sarebbe andato ancora meglio. Va meglio con la magnetica, abbiamo fatto le prove, lo sai, perché il piano riflettente rende molto di più che non l'attacco laterale a portiera. Ha ragione, ci fa vedere. No, no, Giulio. Va, no, Claudio, Giulio, vieni qua, vieni 27. No, stavo parlando con Giulio. Semi duplex, dai. No, bene, ripeti, PMR. Eia. Aspetta che abbasso il volume però, abbasso il volume, se no non riesco a sentire nulla. Ho detto, arrivavo da Bancali o giù di lì, a Sassari. No, no. Prima ero a pranzo fuori, in zona tipo Bancali, più vicino a Sassari di Bancali, dai. L'inizio di Bancali, diciamo. A Marino arrivavo bene, e lui arrivava bene, Giulio un po' intermittente. Adesso sono qua, dai. Franco mi ha detto che passa qua dopo, dai. Ciao, qua. Ciao Giulio. No, io ho tirato sul volume adesso, sto guardando il Napoli. E dopo c'è la Juventus, quindi. E niente, quindi non stavo ascoltando il PMR. Vabbè, Marino è lì vicino, quindi è chiaro che arrivava più forte di Giulio sicuramente. Va bene anche qua. Vabbè, dai, se ci siete ci sentiamo dopo. Io mi preparo e vado a portare il cane, ok? Ok, qua, dai. A dopo eventualmente. Sì, io ero con Franco lì, perché tanto stava facendo delle prove anche lui. E poi ero con Marino in quella frequenza, non c'era nessuno, ero che è Franco. Alla mia chiesa e non si è sentito nessuno, abbiamo guardato la Juve stanotte, basta. Per cui va bene così. Napoli. A proposito, cosa stava facendo a Napoli? 1-1 a Ferrara. Ok. Speriamo allora che finisca almeno così. Vabbè, d'accordo, a dopo qua. Avanti Marco. E poi come inizia la Juve sparisce anche Giulio sicuramente. A che ora è? Alle 9? Com'è? Libera o a pagamento? Sempre a pagamento, alle 9 per un quarto Marco. No, allora non la posso guardare. Di solito la guardo così, giusto per cronaca, per dovere di cronaca, così la guardo. Se a pagamento no, ci mancherebbe. Va bene. Comunque sì, abbiamo riscontrato quello, almeno in 27, io ero zona San Francesco, come si chiama quel belvedere? Claudio? Vabbè, già ho capito, via San Francesco, cos'è? Tappettino, come si chiama? No, dove c'è il belvedere, che sono le coppiette, più su di Gianni, e lì dopo, insomma lì c'eri anche tu, abbiamo fatto la prova con l'antenna per la 27, con attacco a portiera, con attacco a base magnetica. E c'era Sandro di Porto Torres, con la base magnetica, con l'attacco a base magnetica arrivava a 2 Santiago in più, con l'attacco a portiera 2 Santiago in meno in 27, Giulio, quindi presumo vada meglio anche in UHF, perché c'è il piano riflettente del tettuccio, invece con l'attacco a portiera no, è di lato, quindi come si chiama? L'irradiazione è alterata, capito Giulio? Sì. Stavo spiegando poc'anzi che quando l'antenna è di lato spara in due direzioni più forte di altre, cioè è come un dipolo, diventa un dipolo, diventa, capito? Per cui non è a 360 gradi che spara in uguale misura, bensì diventa un'antenna direttiva, diventa, mentre mette al centro capota è tutto un altro discorso, diventa è omnidirezionale, per cui è uguale dappertutto. Va bene Claudio, se stai portando il cane dai, noi siamo qua fino alle 8 credo, dai. Poi magari mi guardo un TG che oggi non ne ho visto nessuno. Ma abbiamo mangiato bene, cose banali però buone, buone veramente. E magari la prossima volta mi organizzo meglio, dai. Mi organizzo meglio. Sì, volevo fare le prove anche di ricezione. Comunque a me fa molto piacere quando mi porto lo scanner con le antenne buone, no? Sentire ora di amatori o anche voi, soprattutto voi. Quando sento gente in BMR mi diverto, mi piace, anche se non partecipo alla modulazione, capito, al QSO. Ok, ma sì, certo. però io nell'attesa mi stavo giocando così, ho preso, tirato fuori due deviatori e un invertitore, una lampadinetta di quelli tipo LED, e per cui mi sono messo a fare un circuitino invertita, ecco, tutto lì. Cioè l'invertita sarebbe accesa la lampadina da più punti, capito? Io avevo tre frutti, i frutti sarebbero gli interruttori, eccetera, e ho fatto quel collegamento, accendo e spengo da qualsiasi interruttore che voglio, capito? Tutto lì. Cioè un collegamento, nello senso della parola, proprio con il tuo impianto, che poi si può applicare anche in un palazzo, perché cioè delle scale per aiuta. Avrei voluto sentire Antonello lì, mannaggia. Allora, quando sono entrato io, se c'eri tu, non c'era. Poi sono andato via, è entrato lui con Marino, mi pare. Poi sono rientrato io e Pomponi era già sparito, perché lui sta in alto, anzi, anche Claudio mi si avesse ascoltato mi avrebbe detto quanto arrivavo, ma stavo guardando la partita, quindi niente da fare, dai. Vabbè, ce n'è d'avanzo e ce n'è anche d'avanzo. Sì, Antonello l'ho sentito prima, l'ho sentito, ma non ci ho parlato io con lui, stavo parlando con Marino, ma poi l'ho sentito che stavo facendo le prove, perché Marino si era allontanato, per cui e lui era rimasto a fare delle prove, poi avrà chiuso, non lo so. Adesso arriva Franco. Franco? Ok, sono qua. Buonasera, ciao Marco. Avanti Marco. Ehi, ciao Fra, mentre tornavo mi sono ascoltato il QSO in PMR, avevo lo scanner e un'antenna veicolare Diamond NR770H, tutta in acciaio inox. È bello sentire QSO, dai, visto che i radiatori ormai non stanno entrando quasi mai, prima era entrato anch'io. Quasi zona bancaria, diciamo, e stavo arrivando a Sassari, quindi buono. A te ti ascoltavo bene lo stesso, e poi quando hai fatto un cavalcavia non ne parliamo, era più in alto, quindi arrivavate bene tutti. Sì, vabbè, il PMR è diverso. No. Va bene, cosa volevo dire? Niente, giù, era proprio con la batteria a terra, era. È fortissimo, è fortissimo veramente, guarda, è un amore veramente, molto molto bene. E beh certo, la batteria era proprio completamente scarica, per cui non ne dava, non respirava. Vabbè, avanti per Marco. Aspetta, saluta Franco, sia che poi non c'è, che stanno a portare il cane. Ciao Fra, sentiamo, dai. Alle prossime. Riprendi Marco. E io a Claudio, dai, buona passeggiata al cane. Pensa che io ero convinto, quando siamo andati via, fossero le 6:30 circa, beh, c'erano le 7:10 insomma, e alle 7:28 siamo arrivati a casa, no, 7:18 siamo arrivati a casa. È vicino, è un bel vicino, infatti non è veramente bancale. Poi chiederò la località, perché non è casa nostra quella. Chiederò la località, così bene o male vi fate un'idea. Ciao Claudio, me l'ho ascoltato, e fino alle 8 già ci sono. E poi a cena. Avanti giù. Ok, sì. Ma ti aveva detto, forse non l'avete seguito, perché Marino ti ha dato anche la località dove ti trovavi lì. Due nomi mi sembra che ha detto, però non me lo ricordo nemmeno io, ma Marino già conosce la zona, capito? Lui ci lavora anche da quelle parti, per cui conosce bene la zona. Eia, se funzionasse qua la connessione vi potrei dire qualcosa di più, ma poi lo cercherò, dai. Poi la comodità è che si possono mandare anche le coordinate geografiche via WhatsApp, capito? Io ti mando questo collegamento, tu l'apri, ti si aprono le mappe, credo, e ti porta al punto esatto di dove stavo andando io, è una figata. Sì, beh certo, quello sì, non ci sono dubbi, ma andate a scrivere nei bancari e poi io fai altro che spaziare con la mappa, ero tu, trovi la località dove sei stato, e così in qualche maniera tu vedrai scritto come qual è la zona. Sì, infatti ti dirò che prendeva più lì che non a casa la connessione, lo sai. E io se vuoi ti dico, è una cosa, forse lì è più aperto, non lo so. Qui troppi palazzi, poi da quando c'è questo ponte a 30 metri mi fa battimento, lo sai. Proprio qui di fronte al ponte non prende meno wind. Comunque wind è così, prende non prende, prende non prende. Invece il segnale di wind di Vodafone è sempre costante. Naturalmente Vodafone solo telefono e non linea 3G. Solo che volevo un bel di più Vodafone, da 5 euro pagò con Wind, con Vodafone 15 euro volevano al mese. Infatti ho cambiato per quello io, adesso io ho portabubile, pago 10 euro al mese, però si paga 3 mesi tutti insieme si paga. Infatti l'ho fatto da poco il trasferimento, l'ho fatto da poco, per cui adesso dovrò pagare di nuovo esattamente il 12 di dicembre, ti immagini un po', di 3 mesi in 3 mesi, e mi hanno anche aumentato i giga, mi hanno aumentato 7 giga addirittura, cosa che non ce li ho a casa, 7 giga, ce li ho nel telefonino, per dirti lo manco, e vabbè dai, ma è stato più che altro una questione di principio, perché nel giro di un 2 mesi massimo mi avevano aumentato 5 euro, quelli di Wind, e poi sinceramente in certi posti non prendeva nemmeno, tanto per dirtene una, no? Va bene, andate fra. Ciao, Giulio, ti ho mandato un video, ti ho mandato. Lascialo finire tutto, perché va due volte avanti e indietro, poi ti ritorna indietro e ti fa vedere quello che ti ho detto io, di poco fa. Ok? Sì, fra, sì, lo guardo, perché adesso è sotto carica. Dopo lo guardo, sicuramente già arrivato, comunque già lo guardo, senz'altro. Bene, fra. Sì, no, ma quello che mi ha tirato è il massimo, fra, no, non ci sono dubbi, è il massimo di quell'attrezzo. Vai Marco. Già, mi sto giocando con le mappe, a vedere se trova la località. Purtroppo, mannaggia, anche guardando la strada, se non è proprio... Vabbè, dai, casomai il telefono me lo faccio dire, dai, così vi fate un'idea. Ok, ce l'hai il numero del marino? No, ha detto a qualcuno di darlo. Di darlo, non so a chi, se a Pomponi o a chi, di darlo a me il numero. Che mi deve chiedere una cosa. Esetta? Vabbè, comunque dimmi tutto Giulio. Poc'anzi ha detto che te lo potevo dare anch'io. Dopo te lo mando tramite WhatsApp, te lo mando Marco, che è il numero di Marino, ok? Eia, ok. Va bene. Natalino, ci sei all'ascolto? Natalino? Magari è fuori, oggi è sabato, magari è andato a pescare. Comunque bella giornata, bella giornata solata. Poi metà serata si è un po' velata, dai. Si è appena velata lì, però niente pioggia, è rimasta lo stesso abbastanza bella, dai. Sì, certo, oggi la giornata era bellissima, infatti mi sono fatto una lunghissima passeggiata a piedi, mi sono fatto, per cui vabbè stamattina, no? Ma lunga veramente, a livello di chilometri. E poi cosa devo dire? Che domani probabilmente piove, perlomeno non so quanto può piove, però sicuramente l'acqua arriverà. Oggi verso Cagliari stava piovendo, senz'altro, però domani dovrebbe arrivare anche qua. Stando alle previsioni, poi vediamo un po' cosa succede. Avanti fra. Ci vuole l'acqua, non è, siamo quasi a secco, poi se piove, domani proprio non mi fa danni, sono al lavoro domani mattina e purtroppo bisogna andare. Mi sa che c'è anche Claudio domani mattina al lavoro, mi sa che c'è. Ok, avanti Marco. Riga, ci sono quasi, Sto vedendo tutto l'ambaradan. Non sono facili le mappe però. Lisce a vedere, forse ci siamo. Qua c'è la curva. Vabbè, Vabbè dai, se riesco a farlo. Vabbè, sono arrivato un po' accaldato a casa, e dopo già mi do una scucciolata. Beh, oggi la giornata era bella, per cui se hai camminato, soprattutto se ti sei agitato in qualche maniera, è chiaro che i bolloni salgono. vabbè, non è un problema quello. Una piccola luce è già a posto. Avanti fra. Sì, sì. Stavo dicendo, quando le vedi, già le illumina bene, già le illumina, quando passa il video, già le illumina bene. E uno a destra e uno a sinistra, li ho messi nel bancone. Bancone, banchetto, là, non è un bancone grosso, colino. E ti dico che i pezzi grossi li scioglie una meraviglia. E aumenta di caloria quella roba. Perché è regolabile, tu ti trovi la temperatura che ti serve a seconda dei lavori che devi fare, certo. Beh, è professionale, fra, se no non sarebbe professionale, ce lo credo. No, ma poi mi ha detto che l'altra cosa è raggiunta, ed è il massimo, ripeto, è il massimo quella stazione lì. Vabbè, meglio così. Avanti, Marco. Allora, vorrei 5 minuti, dai, modulate voi che cerco di... Qua non vedo la stradina, mamma mia, un macello è. Io scemo, ero lì, potevo farmi rilevare da GPS e segnare la località. Va bene, poi sai, puoi fare così anche, ci puoi ritornare, così fai curiosità e magari utilizzando l'antenna al centro del tetto della macchina, sicuramente uscirai meglio, guarda, io sono convinto che sia meglio, almeno qui. Mia zona, sono più che convinto, e ricevi meglio anche, perché ripeto, tu vedi evidentemente in direzione come era posizionata la macchina, era un dipolo in pratica orientato verso marino, sicuro, perché la macchina ti fa da polo freddo e l'antenna da polo caldo, ma essendo messa sulla portiera, evidentemente nella posizione come l'ha messa la macchina, ti faceva da direttivo verso marino, mentre invece è un po' meno la parte mia. Ehi, a voi, sai cos'è? Mentre in 27, no, tu sei fermo, no? Mentre in 27 per perdere il segnale devi percorrere qualche metro, no? Allora vedi il segnale, lì ho provato a muovere le ruote, bastano pochi millimetri, ma a cosa infinitesimale, che il segnale vostro spariva completamente e allo stesso tempo pochi millimetri più in là riprendeva di nuovo il segnale, capito? Lì è tremenda, anche il movimento si tipo... che purtroppo l'onda è corta e vabbè, adesso non ve lo so spiegare, dai. Sì, perché sono onde che hanno bisogno della visione ottica o Marco, si devono vedere a vista le antenne in pratica, per così dire, si devono vedere a vista per avere il massimo o la massima resa, per cui è un po' come la modulazione di frequenza, se tu hai un portatilino in mano, non quello della macchina è diverso il discorso, perché è antenna eccetera, ma se hai un portatilino di quelle radioline a modulazione di frequenza, ce l'hai in mano, sei seduto, alle volte ti giri, sono aggirati, appena hai perso già il segnale, per dire, o perlomeno senti una piccola interferenza di segnale, è tutto lì. È così, con la frequenza è fatta così. Avanti, fra. Non so di che cosa state parlando, perché ho sentito Marco, però ho capito di che cosa. Adesso te lo faccio spiegare a Marco. Vai Marco, spiegagli, lo vedi, è il motivo per cui stavi guardando la mappa della località dove vedi. Vai Marco. No, perché prima di entrare tu in radio, un attimo prima ero a Bancali, stavo modulando e poi siamo partiti. Ho chiuso prima che entrassi tu, dai. E arrivava Sassari. Da Marino arrivava abbastanza bene. Certo, non è bello ripeterlo molte volte. Antenna veicolare 4 watt. Sì, ho capito. E vabbè, lui... in quella zona magari da te oppure da qui la zona di Bancali io la copro, tutta la copro, arrivo sino a Nero, tutto bella, quelle zone lì la copro tutta. Comunque non riesco a capire quale direzione. Vabbè, pazienza, dai, non è importante. È troppo vasta la zona. Non riesco a identificare proprio il punto esatto. Non fa niente, dai, non è importante, dai, Giulio. Ok, vabbè, quello sì. Sì, beh, certo. Vabbè, ma il discorso è questo. Adesso se sei curiosito, magari si può ritornare a fare la prova come ti ho detto, anziché mettere l'antenna attaccata sulla pompiera, così la metti al centro della capota che ti farà piano il presente in maniera più seria e sono convinto che arrivi più forte. Comunque, ti sentivo ugualmente, non è un problema Marco, a Puglia. D'altronde la frequenza quella è così, no? Non è come questa è tutta un'altra musica. Avanti fra. Sì, già lo credo che è diversa giù, molto, no, ma molto diversa. Vabbè, anche questa diciamo che è, diciamo, una frequenza che è abbastanza pulita, diciamo, questo. Anzi, quest'anno è rimasta un po' pulita. Altri anni era più sporca, era. Magari c'era più gente, non lo so, non ho capito. Sì, senz'altro, vabbè, lo seguo evidentemente la gente che ha proprio passione adesso per la radio non se ne è più sentita, prima c'era il boom, in quegli anni scorsi, c'era proprio il boom, è arrivato il messaggio, già due messaggi sono arrivati, al telefonino intanto, per la cronaca. E stavo dicendo, era diverso, infatti ci sollevavi la testa lì, qui a Sassari, dove guardavi, vedi le antenne per questa frequenza, per cui, ma oggi è tutto diverso, dai, sono passati tanti anni e la gente evidentemente si sono anche stancati, non è come noi che siamo appassionatissimi e duriamo da oltre 45 anni, il discorso è questo. Infatti è così. Sì, giù, l'ultimo che ho mandato era quel microfono che ho messo la batteria. Sì, dopo, perché si è attaccato alla presa, lo sta caricando la batteria, perché stavo guardando il video e l'avevo completamente scaricata, proprio da spegnersi il telefonino, per cui l'ho messo a caricare da un'oretta fa. Ma questo telefonino per essere carica al massimo, quando è completamente scarica, ci vuole almeno, minimo un'ora e mezzo, minimo, se no anche un'ora e tre quarti. Avanti Marco. Ehi, vorrei rimanere in pausa un po', dai. Ti manco un attimo in pausa, ok? Ma Marco, come mai ancora non hai parlato di pranzo? Eri fuori di casa ieri. A questo anno non ti ho sentito parlare di pranzo ancora, come mai? Beh, sì, abbiamo mangiato prima oggi in realtà, rispetto agli altri giorni. Una roba normale, fettuccine all'uovo con un buon sugo e parmigiano e poi una frittata fatta anche con fagiolini, una cosa che fa mia zia, buona, molto buona. Poi la solita insalata, caffè, una massa caffè, molta meno roba. L'altra volta abbiamo mangiato di più, però poi eravamo troppo pieni, capito? Giusto per scambiare due parole. Ok Marco, sì, e beh certo. Vabbè, ma non sei stato male, non ti sei trattato male ugualmente ogni volta, anche se eri fuori, va bene, eri in compagnia, e va bene così. No, io oggi sono leggero, a pranzo leggero, brosino. Vabbè, avanti mi fa. Senta, prima di te non vi lascio, vi saluto perché lui mi stava chiamando a cenare, sono chiamato. E niente. Va bene, giù, che abbiamo modo di sentirci, dai. Ciao Marco, sei tra Claudio, me lo saluti. Ci sentiamo, avanti a te Giulio, fai girare, correti per me. Ok Fra, ciao Fra, grazie della chiacchierativa, dai, mi ha fatto piacere di ascoltarti dopo un sacco di tempo, sempre un amico, non ci sono problemi, figurati. Bene, ti mando avanti Marco per i saluti e sperando di risentirci molto presto, Fra. Avanti Marco per Franco. Eia, ciao Franco, dai, ci sentiamo, buona serata. Mi ha fatto piacere sentirti, dai, entra più spesso se puoi. che tra io, Claudio e Natalino stiamo cercando di fare, di tenere a galla il canale, il canalino. Ciao, buona serata. Scappa Marco, purtroppo, ma ancora c'ho degli impegni di lavoro, non è che posso stare sempre qua. Quindi il lavoro è lavoro, poi arrivi stanco è un casino. Va bene, dai, già ci sentiamo. Ogni tanto per adesso, poi vediamo più avanti. Ciao a tutti. Ciao Fra, ciao di nuovo, buonanotte e buonasera, ciao. Avanti Marco. Ehi. Oi Giulio, un bel sabato, dai, meglio che stare a casa, Bene, sì, io quasi ragiono, non capisco perché non riesco a trovare quei rigori di Viuzze, ma e poi io non mi so orientare tanto bene, mi perderei, senza navigatore mi perderei in pochi minuti. Ok, avanti, chi è il fischietto? Avanti. Non so cosa è successo, un amico. Capito? Che dice che io non mi so orientare. No, Marco. Focante ha fischiato due volte. Sembrava un candelino, sembrava. Fortunato, comunque. Sempre un candelino era. Riprendi Marco. Sì. Ma sai cosa è capitato un amico? Gli dico che io non mi so orientare, no? Dovevo andare a Santa Teresa, no? Con la ragazza. Ha sbagliato via, indovina dove c'è finito. E dove è finito? A Palau. Ha sbagliato di 90 gradi, finito a Nuoro. Addirittura, capita all'anima. Non so io. Per sbagliare così tanto. Lui vedeva zona rurale. A un certo punto arriva e vede Nuoro. L'aveva detto. E la ragazza lo stesso ridendo. E poi sono io che sbaglio. Ma mica ce ne vuole mia sbagliare di 90 gradi. Soprattutto deve considerare. Vabbè, bisogna vedere dove è passato, ma se è passato cosa a cosa volevi capire come ha fatto ad arrivare a Nuoro e non a Santa Teresa. Strano, perché forse ha preso vie interne anziché fare il costa a costa, e sembra anche strano da credere, pure me l'ha detto lui e la ragazza. Roba da matti, guarda. Mannaggia, non lo posso variare comunque, che non riesco a trovare. Io a me va con un problema, dai, dopo ti mando il numero di Marino e ti fai dire da lui come si chiama quella località, perché lui l'ha letto, ne ha detto due località addirittura, uno vicino all'altro lì. Ti mando il numero di Marino dopo, appena che chiudiamo, intanto tra qualche minuto chiudo, anche perché devo cenare, poi c'è la partita, se no arrivo in ritardo alla partita, hai capito Marco? Sono già le 8 meno 4 minuti, per cui devo anche accelerare, dai. Il culo c'è sto Napoli, 3-2 sta vincendo. Ma l'hai detto, il Napoli è forte, senza fare, bisogna riconoscere, è forte, e poi con la spalla non è che si può pretendere che possa bloccare, fermare il Napoli non è possibile, anche se devo dire ha dato fastidio a qualcuno la spalla, tipo Mila mi sembra, vabbè comunque. Ma era prevenibile, si sa, è così, è forte, Napoli è molto molto forte, è una gran bella squadra. Sì, mi ero andato matto una volta, mi ero spalmato, già pensi. Ho segnato prima la spalmi, poi subito ho pareggiato 1-1 e in giro di 10 minuti mi ha fatto 2-1, 2-2, 3-2. Guarda che è una bella squadra, per essere novizia dalla B alla A è una bella squadra, si difende bene, gioca molto bene. E che non c'erano palloni giocabili per Boriello, se no avessi visto. Va bene, dai, riprendi Marco. Eia, dai che sto cercando di. Mi sa che vado a vedere, sono già. Caspita. Vado a vedere il telegiornale, dai, sono le 19.57. Comunque Giulio, dai, se riesco te lo faccio avere, se riesco. Allora, perché un puntiglio adesso è una cosa mia, un puntiglio mio è di trovarlo. Ok, ma questo è certo, dai, si cerca trova, si diceva una volta. Un problemi, chi cerca troppo, è così, anche la luce è così. Vabbè, dai, sono le 8, dai, anch'io chiudo, vado a cenare, perché sennò poi tra una cosa e l'altra finisce che accendo la televisione alle tardi, invece in questo modo arrivo per tempo, perché la voglio vedere nel primissimo, anzi sicuramente si collegano anche prima e dunque ci saranno anche i commenti, eccetera, dei corsi dei giornalisti. Va bene, penso che il collegamento sia alle 8:30 addirittura. Vabbè, ciao Marco, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo. Dopo ti mando il numero di Marino, così lo puoi contattare quando clicchi. Vabbè, però qua, come ho già annunciato devo chiudere anch'io, se no già lo sai, la Juve, no? Ok, cla. E io spero che oggi giochi qualcuno che ancora non si è visto, ragazzi, che riusciamo a fregare il Toro, occhio a Belotti, al Gallo che è in ottima forma, è sempre pronto a fare chicchiricchi. Ciao Giulia, ci sentiamo, sì anch'io sono entrato per salutarvi, ma chiudo che vado a vedere la TV ed è quasi pronta la cena. Ciao Marco, ciao Giulio, ciao a chiunque fosse in ascolto sul canale 10. Ciao a tutti, a domani, ciao ciao. Ok, ciao Cla, a domani, dai, buona cena, a domani, speriamo bene, dai, è pericolo, Ciao, sei un pericolo, perché Torino gioca anche molto bene in questo periodo. Va bene, ciao Marco di nuovo, a risentirci. Eia, puntigliando credo di avercela fatta a trovare il punto, proprio vedendo la casa nella vegetazione. Se riesco a capire come si fa ti mando proprio le coordinate. E se metti i satelliti vedrai proprio l'albero enorme che c'è a fianco alla casa, eccetera, ok? Ciao, buona visione, buona cena, buona visione della partita. Ciao ciao. Ok, ciao. Ciao Marco, dai, ci aggiorniamo domani. Ciao. Ciao a tutti, ciao.